Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Dimmi, è possibile che questo germe sia trasportato dal vento? Beh, tutto è possibile, Virginia. I migliori cervelli del mondo si sono dedicati attualmente allo studio accurato di questo fenomeno. Il germe è visibile al microscopio, ma non assomiglia ad alcun germe noto. Che cosa vuoi dire? Che non può essere eliminato con nessuno dei sistemi di cui disponiamo. Ma se il mondo intero è impegnato, si troverà una soluzione. Senti, mammina, quando è che tagli la torta? Adesso il problema più immediato è tagliare la torta. Certo è che ancora, evidentemente, e spero che ciò non accada, il terrore dell'Ebola non è diventato qualcosa che trapela attraverso l'emotività generale, almeno nel nostro paese. C'è il fatto però che i titoli dei giornali in realtà ci ricordano continuamente che c'è qualcosa di particolarmente grave e particolarmente difficile da trattare che incombe alle porte della nostra civiltà, perché noi siamo abituati a ragionare che i grandi pericoli sono quelli che ci arrivano immediati sotto il sedere mentre non ce ne accorgiamo, quando in realtà non abbiamo capito che oggi la diffusione generale di qualunque cosa accada in qualunque parte del mondo è molto veloce, è immediata, le distanze sono accorciate. Ebola, anche l'Europa trema, un uomo ricoverato in Olanda, questo è un titolo. Ebola, il Papa auspica l'aiuto alla comunità internazionale, allarme negli Stati Uniti, 1,4 milioni di casi entro gennaio, sono titoli veri, non sono titoli presi da giornali di fantascienza. Ebola, il primo caso in America è critico, l'uomo rischia l'incriminazione, ha mentito sul questionario compiuto in Monrovia, aveva negato e aveva avuto contatti con persone infette, invece 4 giorni prima aveva aiutato la figlia di amici. Questi sono scenari che appartengono alle cronache, di cui non voglio minimizzare la portata, ma voglio riflettere sul fatto che sulle grandi pestilenze, sui virus imbattibili, sulle persone che tengono nascosto il fatto che sono state vicino a persone a loro care e quindi diventano portatori del virus, si è imperniato un filone ricchissimo di fantascienza, di filmografia, di romanzi e via dicendo, ma cominciando da Alessandro Manzoni che sulla peste ci ha creato il libro che ci ha più tartassato negli anni del liceo. Devo dire che andando avanti fino alle ultime serie di zombie, la grande, imbattibile, terrificante pestilenza che sterminerà l'umanità è stato il filo conduttore di una narrativa che è stata fatta apposta proprio per metterci terrore. E perché mai bruciano i cadaveri? Perché non li sotterrano? Perché è il sistema migliore per arginare il contagio, per impedire ai germi di diffondersi. Questo è ciò che abbiamo creduto finora. E tu vorresti forse che credessimo ai vampiri? Se esistono, sì. Ci sono in giro certe storie, Bob. Ma la gente ha perduto la testa per la paura. Forse. Però sono troppe per essere una coincidenza. Si racconta di gente morta che è ritornata. Ma sono storie, Sam. Questo sono naturalmente storie. È il filo conduttore della traccia più recente, più ricalcata, che in questo momento assieme a quella dei vampiri ha più successo nel mondo, quella degli zombie, delle persone che comunque continuano a muoversi fra gli esseri umani anche in una loro condizione di subumanità, e dietro ci sono dei rimorsi immensi alla nostra civilizzazione. Poi vogliamo in questa mattina darvi una rapida rassegna, ma non per tranquillizzarvi né per terrorizzarvi, per farvi capire che nulla di nuovo sotto il sole, che ogni realtà è stata comunque immaginata, preconizzata, vista, vaticinata prima da chi costruisce i percorsi e le strutture della fantasia dell'essere umano. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Allora, quanto ha ispirato la grande pestilenza i filoni cinematografici del terrore, del catastrofismo, del thriller? E l'Ebola in particolare è stata una volta già argomento ispiratore di filmografia? Beh sì, Ebola Syndrome del 96, partorito dalla profetica cinematografia di Hong Kong dal regista Herman Liao, racconta la storia di questo cuoco che viene sfruttato, che viene vilipeso dal suo padrone che vuole addirittura castrarlo. Allora fugge in Sudafrica, dove si impiega in un ristorante, sotto trova un altro boss sfruttatore e non trova di meglio che violentare una donna di colore affetta da Ebola. Diventato portatore sano della terribile malattia, la userà come arma per vendicarsi di chi lo sfrutta e per spingere gli assalti di chi lo vorrebbe incarcerare. Non è un film che ha avuto grande fortuna, perché... No, è rimasto confinato nel genere, però comunque c'era già quasi 20 anni fa, parliamo del 96, già era forte, insomma, il sintomo di questa malattia, e quindi se ne parlava, di poteva diventare argomento di immaginario in maniera decisa. Ecco, oltre all'Ebola, quali sono stati, diciamo, i grandi filoni delle pestilenze che hanno appassionato i registi non soltanto di Hong Kong? Quello che abbiamo ascoltato adesso è un capolavoro, quello, le clip ascoltate, L'ultimo uomo sulla terra di Ubaldo Ragone, che è tratto dal libro di Richard Mason, Io sono leggenda, che poi ispirerà anche Occhi bianchi sul pianeta Terra e il più recente Io sono leggenda. Qui c'è il protagonista, è questo scienziato che è Vincent Price, e la particolarità di questo film è che legge, ha un nome americano, ma legge Il messaggero di Roma, perché è ambientato in questo eur metafisico in cui appunto ci sono questo germe portato dal vento, porta alla rinascita di questa sorta di strani vampiri. La curiosità di questo film e del romanzo di Mason prima è che lui è convinto di essere l'ultimo uomo sulla terra, perché in realtà è l'unico immune. In realtà esiste una società che riesce a convivere, lui non lo sa, ma è riuscita a convivere con la malattia, perché ha trovato una medicazione per questo, quindi convive e quindi sterminerà lui, rimarrà questa sorta di umanità ibrida che riesce a cogliere in sé la malattia. Quindi ha già individuato, diciamo, dei sottofiloni nel genere. Innanzitutto il privilegiato, l'immune, e già se ne parla anche per l'Ebola, se ne parlava anche per l'AIDS, persone che per una loro particolarissima componente genetica non sono attaccati dal virus che è destinato a sterminare l'umanità. Poi il complottismo, che il virus non nasce mai così per una casualità o perché qualcuno si ammala. C'è sempre detto uno scienziato cattivo che l'ha costruito in laboratorio. Sì, e soprattutto nasce da un'oscura colpa dell'umanità. Qui c'è il retaggio anche cristiano, no? C'è qualcosa che l'umanità ha commesso e quindi misteriosamente per le vie della natura arriva all'uomo il virus. Una piaga divina, qualcuno lo dice sempre, qualcuno già lo dice, qualcuno lo accenna, è stato detto ampiamente per l'AIDS, che era una malattia data dal mal costume dell'umanità, e anche per l'Ebola si troverà qualcosa che giustificherà comunque su un piano metafisico e superstizioso anche un'altra malattia. Mi scusi, dottor Chamberlain, al radiotelefono, è urgente. Dottor Chamberlain? Sì? Sono il colonnello Stephen McKenzie, del Servizio Informativo Militare degli Stati Uniti, presso l'Organizzazione Internazionale della Sanità. Ascolti attentamente, dottore. C'è il portatore di un'epidemia sul vostro treno. Ripeto, il portatore di un'epidemia. Una sorta di peste polmonare. L'uomo è sui 25 anni. Altezza media, svedese. Dovrebbe essere piuttosto gonfio, pallido, sudato, se non è già cadavere. Colonnello, il suo uomo, penso che sia a bordo del treno. È ancora vivo, o almeno lo era un'ora fa. Anche qui c'è l'untore, c'è l'inconsapevole, consapevole, portatore del virus. E anche questo, vedi, c'è una influenza tipo polmonare, somiglia molto a quella che è l'attualità di questi giorni. Sì, un ossimorico terrorista svedese, no? Che è curioso questo. È questo treno che attraversa la mitte dell'Europa per essere poi confinato, siccome poi è pieno di... Il film qual è? È Cassandra Crossing di George Pancos Matos. Siamo in pieni anni 70, ancora ci si lecca le ferite però della guerra e della guerra fredda soprattutto. Questo treno poi verrà confinato verso la Polonia, no? Perché ormai l'untore potrebbe aver appunto unto tutti quanti. E quindi potrebbe essere una minaccia per l'intera Europa questo treno pieno di passeggeri. Quindi questa è la dinamica. E anche qua vedi com'è datato anche la paura. La paura passa attraverso un treno che attraversa l'Europa. Oggi non si direbbe, oggi passerebbe attraverso forme molto più veloci, molto più immediate. Sì, molto meno meccaniche, ferrose, ferruginose, meno legate ai binari, ecco. Adesso mi sembra che tu esageri. Ricorda che anch'io ho un certo potere. Contro la morte rossa? Sì. Sì, è arrivata al villaggio. In questo momento sta facendo strage nei dintorni. E potete considerarvi fortunati di trovarvi qui al castello, sotto la protezione del principe Prospero. Non mi rassicura per niente la protezione del principe Prospero. La morte rossa è qualcosa forse di medioevo, è una cosa lontana come idea. Esattamente, siamo in pieno medioevo, siamo in un po' Edgar Allan Poe rivisto da Roger Corman, interpretato dal magnifico esteta del crimine Vincent Price, che appunto si arrocca in questo castello per difendersi e difendere i suoi cortigiani dalla morte rossa, che in realtà sarà la purga, una sorta di lotta di classe, perché sterminerà i ricchi e potenti a favore invece dei servi della greve. Una pestilenza socialista, diciamo. Sì, sì, terrorista, insomma, siamo nel 64. Per questo rossa. Rossa, esattamente. È il sol dell'avvenire che si annuncia in forma di morbo, ecco, questo è quello che accade. Quindi il sadismo, l'atteggiamento sadiano di reclusione in questo castello di Vincent Price verrà punito dalla morte per malattia. Io mi chiamo Katie. Vieni con noi, da brava. Stai attento. Volete giocare? Attento, è malata. La mamma mi ha dato il permesso di uscire. Ragazzi, potrebbe ha essere detto armata. Che potevo uscire e giocare con voi. Davvero? Che facciamo, ragazzi? Io voglio giocare. Sapete quali sono gli ordini? Giocare. Non c'è niente da fare. Giocare con Grazie, voi. Dobbiamo sparare. Sì, ho detto che voglio Attento. Giocare con voi. La piccola untrice viene sterminata, quindi uccisa. Sì. E qui siamo nella città che viene distrutta all'alba di Giorgio Romero, l'inventore, il grande inventore degli zombie. Senti anche nel tono svampito della voce le tonnellate di erba fumata che probabilmente aleggiavano sulle sceneggiature e sulla costruzione di questi film. Siamo nel 73, in America l'arma biologica invoglia la gente a ammazzare, a sterminare. Quindi anche questi tipi, anche con questa voce melliflua, uccidono perché nell'aria... Diventano dei biechi assassini, gli infettati. Tutti. E anche lì non si sa da dove vengano queste malattie. Spesso vengono utilizzate, canalizzate oppure catturate dalle forze dagli eserciti per trasformarsi in armi da usare contro il prossimo, contro il nemico, contro la cortina di ferro, ciò che c'è al di là della cortina di ferro. Questo è un po' quello che aleggia. È troppo semplice la spiegazione che la peste nera veniva dai topi. C'era sempre qualcosa dietro per giustificare. Comunque questo al tempo sterminò mezza Europa, anzi gran parte dell'Europa. Oggi le varie morti rosse, bianche, gialle, verdi, blu arrivano sempre da qualcosa di misterioso. Melog, cronache meridiane. Mandrake, lei non si è mai domandato perché io bevo solo acqua piovana o distillata e solo alcol medicinale? L'ho notato, veramente l'ho notato, generale. Lei sa cos'è la fluorocontaminazione? Fluorocontaminazione dell'acqua? Sì, ne ho sentito parlare, sì. Ma lo sa che cos'è? No, non credo di saperlo. Quindi non sa che la fluorocontaminazione è forse il piano più mostruoso che i comunisti abbiano mai concepito ai nostri danni? Certo, oggi è difficile classificare che possa essere la grande mente diabolica che ha interesse di sterminare l'umanità. Oggi probabilmente sono i signori nascosti dell'universo, le multinazionali, le grandi industrie, l'industria farmaceutica che fa sperimentazioni, l'industria bellica che sperimenta nuove armi letali, o se no il terrore che viene dall'Islam che sta provando a sterminare l'umanità attraverso la forma più sporca e più infame, le pestilenze. In questo caso però è un classico. E il dottor Stranamore di Kubrick è qui la paranoia del generale Jack the Ripper, ovvero Jack lo Squartatore, che è il corpo mitico dell'America di Sterling Hayden, parla della sua paranoia per l'appunto a un attonito Peter Sellers e gli racconta di quest'acqua che in realtà è semplicemente lo ha reso impotente, ma ovviamente non è l'acqua, è tutto nella sua testa che poi lo indurrà a scatenare una guerra nucleare, appunto a scatenare quella che è la grande bomba atomica e il conflitto con col mondo sovietico, il blocco sovietico, e quindi da lì nasce proprio dalla paura. Ma non è tutto finto, è tutto accade nella testa di Sterling Hayden, non è accaduto realmente. Beh, diciamo che tutto ciò che è divulgazione attorno alle grandi pestilenze gioca molto e amplificato molto dalla paura personale, da ciò che abbiamo nascosto. La paura sempre venga qualcosa di dilagante e infrenabile, infermabile, che non esista nessuna forma per arginarlo in qualche maniera. Signore, che succede? A quanto pare abbiamo un livello 4. Febbre emorragica, mortalità elevata. Secondo lei di che si tratta? L'organizzazione della sanità sta mettendo insieme una squadra, ma prima voglio che vai tu laggiù. Chi contrae il virus accusa sintomi tipo influenza. Nel giro di 3 giorni compaiono lesioni arrossate su tutto il corpo, insieme a piccole pustole che presto essudano sangue e pus, una specie di liquido lattiginoso. Le lesioni maturano, appaiono plastiche al tatto, seguono vomito, diarrea, epistassi, emorragia gengivale, gli occhi sanguinano, gli organi interni cessano di funzionare. Molto bene, maggiore, l'abbiamo letto anche noi il manuale, ma fra 16 ore avrà il tutto sotto gli occhi. Mortalità preoccupantemente alta, localizzata nel raggio di 5 km. Breve periodo di incubazione, Ecco, naturalmente una delle caratteristiche principi delle grandi pestilenze rappresentate nel cinema è quella di avere dei sintomi terrificanti, di esserci una trasformazione, una metamorfosi, perché sennò altrimenti il terrore non è unito al fatto che qualcosa cambia e le persone affette dalla pestilenza hanno trasformarsi in mostri. Questo è Virus letale di Wolfgang Petersen, qui siamo a metà degli anni 90, e qui emerge un altro aspetto di questo genere, ovvero una malattia che esiste realmente, viene dall'Africa, che poi guarda caso è la grande culla dell'umanità, anche in maniera ancestrale, e viene utilizzata invece dal deve mondo... Deve essere anche la grande bara nella mente, sì, del costruttore del film terrificante. Esattamente, in maniera speculare diventa anche la grande bara, però nel mondo occidentale, nel mondo pieno di scienziati, di grandi ricerche, in maniera prometeica questo virus diventa un'arma batteriologica, si cerca con hubris di controllarlo, di scagliarlo contro il nemico, qualcosa che esiste, che in realtà è arrivato come una punizione, si tenta di maneggiarlo e si viene puniti per questo. Questo è un altro dei topoi che ritornano sempre nel genere. Quindi in questo caso è il virus usato come arma. Ritorniamo poi a quello che abbiamo detto prima, il grande complottismo, che è sempre qualcosa che sfugge di mano, comunque che c'è una mente dietro, diabolica, che vuole diffondere. Non è mai una fattispecie data soltanto a delle casualità naturali, diciamo, grande virus. C'è sempre qualcuno che lo maneggia. Prendi i germi, per esempio. I germi? Nel 18 secolo non esistevano mica. Nada, niente. Chi l'avrebbe mai partorita un'idea del genere? Certo, non lo sanno di mente. Poi arriva questo dottore. Summerwise. Summerwise un bel giorno arriva e cerca di convincere la gente, gli altri medici soprattutto, che esistono questi piccoli, invisibili, cosi chiamati germi, che ti entrano nel corpo e ti fanno ammalare. E li convince i dottori che è giusto lavarsi le mani. Che cos'è questo? Un pazzo? Queste cose invisibili, come li chiami tu? Germi? Come? Ora... facciamo un salto nel 20 secolo. Una settimana fa, prima che mi ficcassero in questo buco dell'inferno, ho ordinato un hamburger in un fast food merdoso. Un tizio lì me lo fa cadere. Jim me lo raccoglie, lo spolvera come se niente fosse, me lo ridà tutto tranquillo. E i germi, dico io? Lui risponde: i germi non esistono, sono soltanto un'invenzione creata apposta per vendere disinfettanti e saponi. Come lo vedi? Lui è un pazzo, giusto? Ecco, questo è l'esercito delle 12 scimmie. Prima di entrare nel commento del film, non si può non notare quella che è la chiave di lettura più banalmente diffusa attraverso la rete, attraverso vari gruppi, attraverso quelli che pensano ci sia sempre un grande complotto dietro, che non è da escludere comunque. Non voglio sembrare in questo una persona chiusa a ogni lettura trasversale della realtà, però vedi, c'è sempre una scienza ufficiale che in realtà vive soltanto per danneggiare l'uomo e per speculare l'uomo, è una scienza alternativa che ti dice che non esistono i microbi e quindi è inutile lavarsi, lo fanno per vendere disinfettanti, come si dice i vaccini fanno venire un sacco di malattie, non facciamo fare i vaccini perché naturalmente c'è sempre un grande complotto di chi vuole venderli. Quindi è interessante vedere come le cronache, come le letture comunque generalmente passano per la rete delle cronache, somigliano moltissimo alle trame di film. E questo perché la scienza non ha delle certezze, quindi oscilla. Il medico dice ignoramus, ignorabimus, e quindi no, e non può fare altro che questo, e questo alimenta le paranoie. Le scimmie cosa c'entravano in questo caso? No, qui si tratta, in realtà era un gruppo ecologista, cioè Brad Pitt qui è chiuso in un manicomio, in realtà la sua utopia era solo liberare gli animali. Qui Bruce Willis viene spedito da un futuro con la macchina del tempo per tornare indietro e per cercare di capire perché l'umanità è stata sterminata e costretta a vivere in maniera catacombale sottoterra. Deve capire cos'è successo, viene spedito per questo e incappa in un Brad Pitt che vaneggia di queste cose, ma in realtà ha semplicemente, è spinto solo dall'ecologismo, lui vuole liberare gli animali dello zoo, non c'entra nulla col vero complotto biologico, la vera arma biologica che invece ha sterminato l'umanità. Ci portano con loro, c'entriamo tutti. Io non riesco a raggiungere i vet né al telefono né via email. Da quanto? Da 2 ore. Era su quell'autobus per Princeton. Quella macchina laggiù sta andando a prendere degli amici. Hanno ancora posto per una persona. Dobbiamo andare! Julian, pensa bene a quello che fai. Stava comprando una bambola per il compleanno di Jess, è per questo che non è potuta venire con noi. Senti, io devo trovarla e riportarla indietro, poi ci rincontreremo tutti. Ecco, qui riemerge il tono apocalittico, qua è una specie di vendetta, non sa di cosa, sull'umanità. Qui c'è Shyamalan, che è il regista che forse si colloca fra l'autorialità e il genere in maniera più decisa. Nel 2008 fa questo film che si chiama E venne il giorno e racconta di gente che si suicida. L'arma biologica che è nell'aria induce ad autoestinguersi l'umanità, non a uccidere gli altri come nel film di Romero, ma a uccidersi. E quindi questo allegge, e anche qui c'è sempre un'autolimitazione dell'umanità. Esattamente, è il divino che aleggia, è l'umanità che si autopunisce, forse per una colpa atavica, quello di stare male sulla terra, di usare la terra, stuprare la terra in maniera eccessiva. Qui c'è sempre una chiave ecologista profonda, estrema. Ecco, questo non l'abbiamo detto finora per banalizzare ciò che realmente sta accadendo, ma per farvi capire che dietro le paure collettive non c'è nulla che le menti fervide dei romanzieri non abbiano già immaginato. A domani.